Funtime Radio presenta Ludico Forum. Cari amici di galassie lontane, benvenuti qui su Runtime Radio, la web radio geek, ma più precisamente benvenuti qui su il canale YouTube di Dietrologia Videoludica. Scusate, ma sono distratto dal fatto che ci sono 50 pulsantini che dovrei spingere e che quindi ovviamente mi distraggono, perché sapete che arrivati alla fine della stagione, arrivati a questo momento particolare di caldo, insomma, tante cose mi distraggono. Comunque, benvenuti carissimi amici da galassie lontane qui sul canale di Dietrologia Videoludica, ma soprattutto sul podcast di Ludico Forum, e quindi insomma cerchiamo di fare questo, diciamo, questo content da distribuire in varie situazioni per rivitalizzare sia uno che l'altro, chiaramente. E con me in questa meravigliosa puntata, che insomma direi quasi in maniera indispensabile per ragioni proprio pratiche, diciamo così, c'è l'unico in grado di parlare del tema di questo episodio, ossia il nostro caro amico Marco Gualdi. Ciao Marco. Ciao. Sei contento di essere qui con noi? Questa sera sono arrivato in questa bellissima stanza, cara mia. Mi sono portato il mio avatar. Cioè, no, in che senso? Spiegaci. Facci capire quello che... Ok. Va bene, tutto a posto. Comunque Marco Gualdi, perché lui ha continuato, a differenza mia, a giocare a No Man's Sky, che non è né Scu né... esatto, ma è No Man's Sky, che è questo gioco meraviglioso che Sony ci ha messo a disposizione ben 7 anni fa, pensate, sono stati già lunghi 7 anni, e che insomma ci ha hypato tantissimo, diciamo, nel momento in cui è uscito, fino insomma a creare un po' una sorta di cortocircuito, di shock quasi. Però adesso, prima di parlarne, vi ricordo che sia Dietrologia Videoludica che Ludico Forum fanno parte comunque del progetto Runtime Radio, la web radio geek che insomma si autofinanzia, e oramai insomma da più di 10 anni noi regaliamo e distribuiamo contenuti per il vostro divertimento. E quindi, se vi capita ogni tanto, se avete la possibilità, dateci una mano con un piccolo contributo scannerizzando il QR code, sarete inviati direttamente sul mio conto corrente bancario svizzero. No, vabbè, è ovviamente di Runtime, però essendo un PayPal non può... Svizzera non si usa più, si usano le Cayman adesso. Ah, le Cayman, va bene. Comunque, eventualmente vi dovesse venire la voglia durante la diretta, lo trovate qui sopra, eccolo qua sopra, lo trovate pronto a disposizione per essere scannerizzato, se volete appunto fare questa donazione. E se volete, potete anche in questo momento fare i vostri commenti e partecipare a quello che sarà il racconto di questa puntata. Allora Marco, io faccio una sorta di antefatto della questione, perché un po' di coming out, sì, diciamo che l'antefatto della questione è l'unica cosa che io possa fare in questo episodio in particolare, perché quando fu annunciato No Man's Sky noi eravamo, diciamo, abbastanza interessati, a tratti, possiamo dire a tratti, da questo gioco, che era una sorta di Star Citizen. Peccato Pizzi, perché per un attimo ho capito come a tratti, ma proprio a tratti, no, non a tratti, esatto, ma a tratti, cioè eravamo comunque in stato di hype, diciamo così, per questa cosa che era una sorta di... quello che noi avevamo capito che era una versione facilitata, semplificata di Star Citizen o Elite, insomma, se vogliamo. Quindi questa sorta di simulatore, esploratore. Un maggiore di Spore anche. Pure, è vero, perché poi c'è un po' di tutto, ma ci arriviamo anche a questo, diciamo, questa specie di simulatore, esplorazione spaziale che... suppliva, diciamo, una certa semplificazione dal punto di vista concettuale del videogioco a favore di una immersività e un senso di atmosfera molto particolare, perché certo quello che non voleva fare No Man's Sky era puntare al realismo, ma era puntare a diciamo all'immedesimazione, al senso di esplorazione, di solitudine e anche al fascino dello spazio. E infatti questo spazio veniva reso in maniera diversa da come siamo abituati, no? Lo spazio era colorato, cioè il gioco era molto particolare. La cosa che a noi ci ha attratto, perlomeno a me, tantissimo, era il fatto che il gioco era praticamente una sorta di tavolozza bianca dove comunque tu potevi contribuire alla costruzione di quello che era l'universo, questo universo procedurale, dove c'era un'intera galassia tra virgolette che tu potevi esplorare per raggiungere un obiettivo, magari ne parliamo dopo, insomma ne parla bene meglio Marco. Però durante questa tua esplorazione come uomo solo questa cosa della solitudine è una cosa che funzionava secondo me all'inizio, poi dopo diventa un problema e il fatto che tu potevi comunque contribuire alla costruzione della galassia, perché ogni sistema che tu raggiungevi poteva essere da te nominato, così come potevano essere nominati i pianeti, le lune, i soli, insomma anche animali, le piante, anche gli animali e le piante che tu trovavi, ovviamente anche i sassi, cioè ovviamente non ci mettevi a fare una cosa del genere, però io ricordo insomma il mio sistema sovietico, che cioè il mio sistema di partenza era un sistema sovietico e quindi ero molto contento, insomma, si chiamava Soviet semplicemente. E poi è questo che poi hanno rasato i salvataggi. Esatto. Ma guarda, io penso che ci siano stati pianeti o sistemi solari chiamati tipo Ceppe da Cazz, capito, queste cose qua, forse sì, però potevano essere segnalati, ma io francamente se mi capitasse anche oggi un sistema che si chiama Ceppa di Cazzo, io lo segnaleresti, perché sei un po' uno spione infame. No, non lo farei. Ah, non lo faresti? No, non lo farei. Beh, lascio, diciamo che se dovesse esistere una civiltà aliena che nella sua lingua il suo sistema si chiama Ceppa di Cazzo, cioè tu perché dovresti, ma che poi da lì maledetto, no scusate la vostra, perché questo mi ricorda la famosa puntata di Star Trek Enterprise dove praticamente gli alieni se ne vanno incazzati dall'Enterprise perché loro avevano osato mangiare in pubblico, insomma, cosa che poi è andata male avanti in altre situazioni, sempre peggio poi chiaramente, fino a che il cane gli ha pisciato sull'albero sacro. Vabbè, comunque diciamo che questo senso di solitudine, di immersività e di insomma di esplorazione e di fascino, perché comunque questa atmosfera così ovattata, particolare, colorata, insomma a me mi aveva intrigato tantissimo ed è stato uno dei pochi giochi nella mia vita, forse solo No Man's Sky e Fallout 3 chiaramente, che ho comprato al day one. Te ricordi, Marco, siamo andati a comprarlo al day, perlomeno io, ma pure tu mi pare che l'hai comprato al day one. Io mandai i miei scagnozzi a comprarlo. Ok, comunque alla fine iniziai a giocarci, io penso che nei primi due giorni ci ho giocato tipo 16-17 ore, una cosa fuori scala, diciamo così, no? Però a un certo punto di queste 16-17 ore spezzate in due sessioni di gioco, che io poi quando vado in trip proprio è brutta questa storia, perché pure con Fallout 3 e anche il 4 devo dire la verità, e facevo queste grosse sezioni, a un certo punto però ci ho avuto tipo un trauma, uno shock che dal punto di vista scientifico mi pare di aver letto da qualche parte, si chiama rottura dei coglioni, cioè nel senso a un certo punto mi sono reso conto che mi stava romper cazzo, ma però non lo volevo ammettere a me stesso, cioè perché ero talmente hypato per questo gioco e tutti dicevano ma guarda che è una cazzata, no, invece io volevo difenderlo sto gioco perché io ci avevo creduto in lui, e invece in realtà mi stava romper cazzo, perché nonostante che tu potevi esplorare, fare il warp nell'altri sistemi e roba genere, poi alla fine la sostanza è che tu potevi fare tre cose: trovare delle cose dove c'erano gli enigmi matematici, c'era la corruzione, c'erano le basi stellari, è tutto uguale, cioè dove andavi, andare ce l'abbiamo in Italia, la corruzione pure ce l'abbiamo, li facciamo tutti i giorni, cioè esatto, quindi cioè, perché tu mi metti nel gioco una cosa che io c'ho già in Italia, e devo dire che questa cosa mi ha, cioè a lungo andare chiaramente era tutto uguale, tutte sempre le stesse cose, anche mi ha tarpato le ali questa cosa. Ma no, ma proprio ho fatto tipo un cortocircuito, ma mi ha creato uno shock, tant'è che io ho disinstallato il gioco e da allora non l'ho più toccato, cosa invece diversa da quello che ha fatto Marco, perché Marco negli anni, forse anche documentandosi, io proprio mi rifiutavo anche di documentarmi perché era un tradimento per me, era come un essere stati traditi, che ne so, dal proprio eroe, insomma, capito? Cioè da una figura che tu dici no, questo non mi può tradire, no? invece in realtà per me è stato un tradimento incredibile, e quindi non mi sono neanche più informato, proprio shock totale, cioè rifiuto completo della questione. Invece Marco si è un po' informato, ha visto che piano piano, poi noi ci abbiamo scherzato tanto in dietrologia videoludica, pure io sono passato dal prendere per il culo Sean Murray, ma chi non l'ha fatto fino al 2017? Eh sì, noi poi ci scherzavamo, no, sui nostri podcast, no, che diciamo che la Sony ha mandato la Yakuza, perché poi alla fine questi erano pure dei mezzi spariti, cioè voi immaginate quanto ci ha puntato Sony su sto gioco, ci ha puntato tanto, ha fatto pure un bel tam tam dal punto di vista del marketing, insomma ragazzi, era un gioco super lanciato, e quando dopo due giorni ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, vuol dire che sto gioco è stato fatto uscire, era vuoto, poi per un periodo di tempo non si è più saputo niente, né dei sviluppatori, né della Sony, né di niente, fino a che evidentemente tutti morti. Noi eravamo convinti, ma sicuramente qualcuno è stato ucciso, sicuramente, e insomma, gli hanno anche augurato la morte, cioè c'era un Reddit, un subreddit dedicato a No Man's Sky che fu chiuso dopo un paio di mesi per gli insulti e per le cattiverie che c'erano scritte per la malvagità. Tu ti ricordi Sean Murray che andava in giro a fare: oh, ma questo gioco avrà le cose procedurali, avrà i pianeti che si generano, le piante, gli animali, che erano tutti uguali, che bello, con i suoi piedoni, andava in giro con i suoi piedoni scalzi perché faceva molto figo, e poi dopo sparì. A un certo punto è sparito per diversi mesi, cioè non si è anche anni, visto. Anche anni, penso. Anche anni. Adesso è ricomparso, è ancora più attivo, si fa vedicchiare di meno, però è attivo su Twitter. Per ora. Diciamo, gli hanno dato talmente attivizia e faccia che sono altro prima di dire. Probabilmente non è più riconoscibile. No, nel senso che prima di dire fa, e poi dopo dice. Differenza di prima. Guarda, Pizzo, tu non ce l'hai più questo. No. Non ce l'hai più. No. La versione alfa di No Man's Sky per PS4. Guarda. No, ce l'ho da qualche parte. L'hai venduta. Dici? Questo è un cimelio. Questo ricorda all'umanità il fallimento. Eh sì, è un'icona. Ricorda il fallimento. È un simbolo, proprio il monumento del fallimento. Da una parte, ma anche della rinascita dall'altra, perché c'è speranza. In realtà c'è sempre un po' di speranza. Perché? Perché facciamo una brevissima storia di No Man's Sky, però mi devo prendere davanti, bisogna confessarlo, devo mettere davanti Wikipedia. Perché? Perché è successo che negli anni, lavorandoci sopra, hanno cominciato a buttare fuori delle espansioni, dei miglioramenti, degli update, ma giusto qualche cosina, proprio perché comunque era vuoto e quindi doveva essere riempito in qualche modo. Cioè tu dici, di tanto in tanto ci buttavano dentro qualcosa, però lì secondo me era Sony che ancora ci provava, capito? Cioè, tipo... Neanche di tanto in tanto, perché adesso vi dico proprio rapidamente le espansioni e proprio molto velocemente che cosa c'era dentro, ma soprattutto le date, che sono importanti le date, perché poi... Allora, praticamente il gioco è uscito nell'agosto del 2016, era un agosto molto caldo. E praticamente noi invece chiusi dentro a giocare a questo gioco, assolutamente. E avevo un po' sbloccato tutto quanto. A quell'epoca c'era soltanto una cosa che si poteva migliorare parecchio, ed erano gli slot delle navi. Le navi, che erano tutte sempre generate proceduralmente, che è un po' come dire anche a cazzo di cane, venivano praticamente dotate di un numero tot di slot liberi per metterci la roba dentro. Per aumentare gli slot tu dovevi praticamente trovare una nave precipitata, reclamarla, ed automaticamente quella nuova nave aveva uno slot in più di carico. Questo fino al massimo mi sembra di una trentina di slot al massimo. Questa era l'unica cosa che si poteva fare per migliorare il carico disponibile. E dopo aver nominato diversi sistemi, diversi pianeti, animali, mi ero messo un po' a fare un po' di cose, a un certo punto mi rimaneva soltanto di andare al centro della galassia, perché lo scopo era trovare il segreto che giaceva al centro della galassia. Non c'erano grosse trame, poi sono state aggiunte. Beh, diciamo che sì, ma perché in realtà è concettualmente, qui interrompo. Era un gioco di solitudine. Esatto, concettualmente già funzionava sta cosa. Cioè di suo era proprio, tu immagina, cioè io quando stavo lì mi domandavo, ma questo qua che sta a viaggiare da solo nella galassia, perché solo da solo, cioè il fatto di non incontrare quasi mai nessuno, anzi nessuno ci sta, cioè, perché tu stai gli NPC, ma erano proprio, stavano sulle navi, ok, c'erano delle determinate situazioni, però in generale ci sta, no, il fatto che tu stai a viaggiare per una galassia dove le distanze, le cose, cioè non è che c'è la gente, ci sta al supermercato, capito? Cioè, nel senso, ci stanno. Quindi tu da dove vieni e dove stai andando? Cioè, già queste domande erano già sufficienti, no? In qualche maniera, se tu ci pensi. Soprattutto chi trova fa, che è sempre la domanda. Perché? Che è, esatto, la terza domanda dell'uomo, insomma, chi trova fa. E quindi praticamente mi ero messo incaponito a, voglio, prima di arrivare al centro della galassia, perché poi finisce il gioco, in realtà poi motore, salta, ricarica il motore, salta, ricarica il motore, sì, sì. C'era il meme tecnologia danneggiata, che tu dovevi sempre stare lì a riparare cose, salta, bla bla bla bla. Tu sai che c'è, adesso mi faccio una bella run intorno a un pianeta, perché lì bastava girare intorno a un pianeta con la velocità minima e di tanto in tanto scappava fuori una nave precipitata e praticamente ci persi ore. Ma neanche di tanto in tanto, almeno ogni pianeta c'era una nave precipitata. No, ce n'aveva di più di una. Appunto. Ce n'aveva di più di una. E praticamente come anche questa cosa all'inizio era affascinante, cioè una nave precipitata in uno spazio, non c'è, capito? Questo senso di isolamento, di solitudine. Gente che precipita poi tra l'altro. Esatto, però dice non c'è nessuno, però a voi gente, tutti precipitare, cioè, sono tutti morti, sono in più aggiungerei anche quella cosa di questa civiltà che in realtà è oramai estinta. Quindi c'era questa sorta di ruderi, diciamo, come posso dire, archeologici, che comunque erano una testimonianza del fatto che c'era stata sta la prima progenie, esatto, sta iper, erano sempre Geck poi da là, perché ci sono tre razze, i Geck, i Viking e i cazzi imperi, che non mi ricordo mai, che sono veramente le e tu che razza sei, scusa? Sei viaggiatore. Sei il viaggiatore. Che è diverso. Esatto. Che è diverso. I Corvax, che sono praticamente questi scatolotti televisori, che cioè dei corpi con dei televisori, che sono dei software che cambiano in continuazione. Un po' come i robot, gli androidi di Mass Effect. Come si chiamavano? Ah sì, ho capito. Vabbè, ma adesso me ne vengono. Questa e poi c'erano nomi simili, tipo i Gank, pure quelli, Gank. Esatto. Allora, no, sono i Gank, erano questi qui. No, vabbè, poi mi ci verranno. E comunque, no, te lo dico subito. Comincio a esplorare, cioè, ok, adesso mi faccio la nave con 30 slot, così non mi preoccupi di altro, e poi parto diretto e vado a esplorare diretto il centro della galassia. Allora, passai ore a fare questa cosa, alla fine riuscii a trovare l'ultima nave con 30 slot, li ho riparati, l'ho messo in sesso. Domani comincio la mia traversata della galassia, e non è mai cominciato, perché in quel momento mi si è spezzato il cuore. Pure a me, sì. In quel momento ho sentito proprio il ma chi te lo fa fare, che mi richeggiò, è lì la domanda che ti spezza proprio le gambe. Ma chi te lo fa fare di andare al centro della galassia, che tanto è tutto uguale? Esatto. Perché il problema fondamentale di No Man's Sky, che sì, gli animali procedurali, sì, le cose procedurali, ma in realtà poi le pietre sono sempre quelle. Gli animali, i pezzi erano più o meno sempre quelli, e uscivano fuori degli abomini terribili, sì, cioè, sì. Animali con quattro zampe che camminavano con due, c'è cioè anche il meme video. I get. Esatto. Le cose assurde, le piante più o meno sono sempre le stesse, quindi sì, tutta questa proceduralità alla fine c'era e non c'era, perché allora la proceduralità c'era, ma era basata su pochi modelli, esatto. Cioè, ovviamente la proceduralità non si può inventare le forze, cioè, nel senso, tu dici, guarda, io voglio che tu generi automaticamente in maniera randomica queste cose, ma chiaramente tu gli devi dare una base, no? Cioè, nel senso, come c'erano alcune cose basi, però da lì più di tanto non può. Esatto, perché comunque non è che ci potevano mettere milioni di basi sui quali fa mix, no? Cioè, nel senso che poi alla fine quello era un mix di cose che si mischiavano poi fondamentalmente, no? Però i pianeti, esatto, alla fine a lungo andare erano tutti uguali, cioè, nel senso. No, ma più che altro c'è questa galassia piena di pianeti, ovunque c'era vita, ovunque c'erano piante più o meno sempre simili, c'erano gli stessi ruderi, le stesse navi precipitate, le stesse. Allora, un po' ma perché devo esplorare questo mondo che è tutto uguale, è tutto identico, chi te lo fa fare? Alla fine ho lasciato, ho detto, beh, ci rigiocherò con calma più avanti, e è andato a fanculo. Nel frattempo la gente bestemmiava contro Sean Murray e la Hello Games, compresi noi che l'ha fatta la Hello Games, perché comunque, cioè, ovviamente erano spariti, non si facevano più sentire, perché li hanno ricoperti di insulti, anche giustamente, perché quello anche il nome Sky, questo nome Sky qui, cioè tra gli insulti anche la Sony, che gli ha mandato i sicari, ma non ha insultato la Sony, è agito in silenzio. È un gioco vuoto, questo è un early access, ok, questo è un gioco vuoto, si chiama accesso anticipato nel 2016, perché qui dentro questa è una scatola vuota, non c'è niente qui dentro. C'è un gioco che poteva fare tante cose, ma che non ha fatto. Che se fosse uscito come Early Access, però nel 2016 si usava ancora poco, perché ti vedevano, ah, accesso anticipato, non mi puoi chiedere tutti sti soldi per accesso anticipato. No, oggi li danno, oggi li danno. Ma a quell'epoca un po' di meno. E quindi hanno fatto uscire questo gioco che era palesemente incompleto, cioè, ma anche le cose che aveva detto Murray, delle cose che avrebbero, che ci sarebbero dovute essere, però o sono uscite monche o non c'erano proprio. E quindi lì bestemmie. Dopodiché, voi tenete presente l'uscita, agosto 2016, a novembre del 2016, quindi pochi mesi dopo, esce Foundation, che è la prima ufficiale espansione, dove ci sono, allora, c'è la possibilità di costruire le basi, mettono salvataggi manuali che ti puoi portare dietro per salvare, dispositivi che raccolgono minerali, eccetera. Ok, prima espansione. Marzo 2017, quindi pochi mesi dopo, esce Pathfinder, che è una nuova espansione per la condivisione delle basi online, ma solo quelle, perché all'inizio era tutto quanto offline, ok? Tu online caricavi le tue cose, le tue scoperte, ma era tutto quanto a scatole separate, quindi ognuno giocava nella sua galassia, che era condivisa, ma ognuno stava nella sua sessione, non si poteva incontrare, incrociare, niente. Quindi esce Pathfinder, di condivisione delle basi, vengono cambiate un pochino l'UD, eccetera, eccetera. Poi agosto 2017, pochi mesi dopo, Atlas Rises, terza espansione, viene aggiunta una storia. E poi questa cosa dell'Atlante, che poi l'Atlante, no, era poi presupposto di partenza, che ti diceva che dovevi andare comunque al centro della galassia, no? Esatto, dopo un anno, ok? Quindi poi ci sono, mettono più risorse, nuovi sistemi per scansionare, raccolta delle risorse, bla bla bla bla bla. Poi mette, allora, praticamente il manipolatore di terreno per modificare i terreni, che non si poteva fare, e poi i giocatori possono finalmente vedersi tra loro, ma non possono interagire tranne che con chat vocali, ok? Cioè cose particolari. Iniziamo da uno sparato. Luglio 2018, quindi dopo un anno, c'è stato un anno di stop praticamente. Allora, fino a questo momento la gente ancora bestemmiava alacremente, perché queste erano tutte cose che dovevano stare nel release originale, cioè, no, non potevi metterla prima. Dopo un anno di lavoro esce Next, e credo che sia proprio con questo che abbiano piallato tutti quanti i salvataggi, perché effettivamente hanno fatto uno step superiore. Quindi viene aggiunto il multiplayer, che doveva esserci secondo Murray sin da subito. Quindi, ed è stato il momento in cui Soviet non esiste più. Soviet è venuto a mancare. Praticamente lì hanno resettato completamente tutto. Ah. Da lì col multiplayer si poteva combattere, esplorare insieme. C'erano missioni settimanali. Si è passata alla terza persona, perché prima era tutto quanto in prima persona, e passando alla terza persona si è cominciato a terza persona, che io vedo dal video che è un video tuo questo, sì. Tu hai abusato in maniera incontrovertibile, tra l'altro con sto mantello insensato, è una delle tante cose che hanno sbloccato, che non per cazzo, poi diciamo la verità, è fatta apposta, sì. È così davanti. E praticamente si potevano anche, cioè introdussero anche il teletrasporto, perché poi alla fine tu dici, vabbè, mi sono fatto la base, poi parto e quando cazzo la ritrovo? E invece no, con il teletrasporto potevi ritrovare le tue basi, ecco perché hanno dovuto ripiallare un po'. Ottobre 2018, quindi 3 mesi dopo, cioè qui si sono cose, a parte questa cosa di un anno, praticamente a distanza di 3-4 mesi hanno cominciato a farci roba. Che roba che molto probabilmente ce l'avevano già, non sì, dico pronta, però cominciata, perché se no non sì, quantomeno era progettata, insomma. Esatto. Quindi ecco perché ti dico, quello era in Early Access, ci hanno fatto uscire un gioco completo che in realtà non era completo. Comunque hanno fatto uscire di Alice. Queste sono nostre tesi, non è che, cioè, nel senso non c'è niente di ufficiale. Lo so, però cioè, sì, sono dei programmatori fondamentali che quando stai lì con è presumibile, alla gola, tu dici che programmi le cose alla velocità luce, può darsi pure. È presumibile il fatto che, cioè, quello che diciamo abbia un senso, anche perché tu comunque hai fatto uscire un Early Access comunque a 70 carte, no? Cioè nel senso venduto come disco, cioè come gioco finito, è chiaro che secondo me era uscito all'inizio, ricordiamo, solo per PS, solo per PlayStation, forse, sì. Non so se mai anche per Xbox, ma era soltanto dopo per, non era esclusiva PlayStation all'inizio, esatto, poi è uscito per tutto il resto, e questa è stata un po' una salvata. Con The Abyss poi hanno migliorato le zone sottomarine con una storyline più piccola, una quest subacquea, quindi la possibilità di fare anche basi sott'acqua. Novembre 2018, mese dopo, esce Visions, Visions, praticamente vengono aggiunti nuovi biomi nel pianeta, quindi nuove temperature, cose innevate, bla bla bla, nuove creature anche sott'acqua, atmosfere, eccetera eccetera. Ci sono anche particolari oggetti che si possono raccogliere in alcuni pianeti per abbellire le basi, trofei, eccetera, eccetera. Agosto. Tanto salutiamo sia Francesco che Vincent Valentine che ci hanno raggiunto in chat. Ciao. Piccolo buco di nuovo. E agosto del 2019 praticamente esce la settima, che è Beyond, settima espansione. Si può giocare in realtà virtuale, che a noi francamente ci frega ne cazzo. Però hanno aggiunto la realtà virtuale. A detta di chi la sta di chi la prova, è pure fatta bene. Beh, ci hanno messo 7 anni. Ci hanno messo anni, ma mi ricordo che chi gioca in realtà virtuali su No Man's Sky è ben ottimizzata e non devi fare cose tipo staccare i cosi, giocare con le cose, cioè cambiare da realtà virtuale a tastiera perché magari usci da un menu o tra l'altro. È tutto quanto gestibile. Dicono che è fatta molto bene. Non l'ho mai provata, ma mi fido. Poi praticamente hanno migliorato ed esteso la trama principale. Hanno aggiunto Lab Anomalia, ti ricordi Polo e Nada? Ecco, questa anomalia praticamente è diventata una base, un hub dove si incontrano tutti quanti i giocatori che puoi richiamare ovunque nella galassia. Quindi tu ti chiami Lab, ci entri dentro e ti ritrovi in mezzo agli altri giocatori. Hanno aggiunto altri NPC sui pianeti e si possono cominciare a cavalcare gli animali, cioè trovi un animale, gli dà da mangiare, oh che bello, cavalchiamolo. C'è Vincent che dice che se non c'è Evangelion è scaffale. Guarda, grazie a Dio, guarda, è riuscito, questo gioco è riuscito a essere noioso anche senza Evangelion, quindi poi però si è ripreso. Novembre, quindi altri 3-4 mesi, cioè c'hanno questi buconi e poi pa. Vabbè, non è che poi sta a tirare fuori espansioni ogni 2 mesi, cioè ci sta. No, ma... cioè tu consideri che questi per 7 anni sono stati nel vuoto più totale, cioè assolutamente, perché c'è una scatola vuota, ci può buttare dentro quello che te pare. Dopo hanno aggiunto nuove migliorie della realtà virtuale, tecnologie, interfaccia, eccetera eccetera. Poi dopo un mese hanno aggiunto anche un oggetto in gioco che permette di creare e riprodurre musica. Utile. Febbraio 2020 esce Living Ship, dove si possono trovare le navi viventi con una quest tutta dedicata. E poi a aprile 2020 proprio esce ExoMech, decima espansione, dove viene introdotto il Minotauro, che è il robottone gigante che tu puoi, gigante, abbastanza grosso, che tu puoi guidare. A giugno di quell'anno è stato messo il crossplay, quindi tra PC, PlayStation e Xbox ci si poteva incontrare e giocare insieme. Quindi svoltona, perché poi la gente ha cominciato a interagire anche con diversi dispositivi. Luglio 2020 esce Desolation, undicesima espansione. Ci si possono incrociare i mercantili abbandonati nello spazio, e si può personalizzare il proprio, perché nel frattempo avevano anche introdotto i mercantili, che è una specie di nave portaerei per la tua una base semovente. Settembre 2020, Origins, dodicesima espansione, aggiunti nuovi pianeti, nuovi bioni, nuove combinazioni di animali, quindi nuovi pezzetti che possono mettere, animali selvatici robotici e i vermi di Dune, i vermoni di Dune, o così ce li hanno buttati. Quindi neanche vabbè, c'erano su Mass Effect, ci possono stare pure qua. No. 20, cioè sempre nel 2020 a novembre. Io il vermone di Mass Effect è terribile, un rotto dei coglioni incredibile. Esce Next Generation su che praticamente la possibilità di portare tutto quanto i giochi in 4K, cioè è un'espansione, praticamente una miglioria del gioco, quindi per il PlayStation 5, l'Xbox Series XS. Sta attento a te, Anictus. Ma è difficile. Febbraio 21, Companions. Con Companions, praticamente, puoi adottare e far figliare gli animali. Questo è il robottone, visto che ti sta vicino. C'è una cosa assurda. Poi cominciano a uscire. Pronto? Mi senti? C'è il robottone qui in questa scena. Sì, quello è il mio Minotauro, che si chiama Minotauro. Mino Rei Tauro, anzi, si chiama. È il mio. Che poi, tra l'altro. L'immedesimazione proprio. Una delle ultime espansioni lo puoi dotare di intelligenza artificiale e può fare da solo, praticamente ti può aiutare. Companions, praticamente l'abbiamo già detto, nell'aprile 21 esce Expedition, siamo a 15, 15 in 2006, siamo già 4 anni, quanto siamo? Sì, 17, 18, 19, 20, 24, 5 anni. Cioè, praticamente vengono introdotte le spedizioni. Queste spedizioni sono a distanza di 4-5 mesi, massimo 6. Ci sono queste spedizioni che sono dei quick start di partita. Tu puoi giocare questa spedizione, che normalmente è una nuova partita, è sempre una nuova partita con diverse modalità, che poi viene trasformata in partita normale. E questa partita normale, cioè, tu ci parti, poi dopo puoi continuare a giocare. Questa partita semplificata ti sblocca alcune cose del gioco che ci metti un po' per sbloccarle se le cominci normalmente, quindi è una quick start, cioè vai. Dopodiché a giugno esce Prisms, che praticamente introduce leggo lo Screen Space Reflection per migliorare le superfici metalliche, Parallax Occlusion Mapping, tutte queste cose qua, quindi è una cosa più grafica che ha. Poi esce Frontiers, sempre nello stesso anno a settembre, che è la 17ª. Quindi si possono trovare gli insediamenti, che sono dei piccoli villaggi alieni di cui tu puoi prendere il controllo di uno solo, puoi costruire le case, puoi scegliere se fare la cosa più industriale, bla bla bla bla bla, bla, e ti porta un tot di una merdina di guadagno al giorno, e aumentano gli slot di salvataggio. Poi esce nel 2022 Sentinel, che praticamente hanno nuovi nemici, armi, potenziamenti, e poi praticamente hanno incluso nella lore del gioco le origini delle sentinelle, per spiegare che cosa sono. Sì, poi le sentinelle, ricordiamo che le sentinelle erano una delle poche cose che esistevano già dal principio, perché tu... L'unico scopo era romperti il cazzo. Esatto, cioè tu qualsiasi pianeta dove andavi, oltre a trovare i resti di questa civiltà antica, e quando cominciavi a raccogliere risorse arrivavano queste sentinelle che ti rompevano i coglioni, insomma, poi fondamentalmente il loro scopo era quello di sì, vabbè, poi prende, però insomma, vabbè che è buono, vabbè, no? Che è self service, però non te ne approfittà, questo è un po' il concetto. Poi esce Outlaws con appunto la 19ª espansione, dove vengono messi i sistemi fuori legge pirata, insomma, così, dove puoi fare il contrabbando di merci e ti sbloccano, ti danno le navi solari, che praticamente hanno queste vele solari che si aprono. È una delle poche, delle prime navi che hanno delle meccaniche funzionanti, tra virgolette, per cui si aprono queste vele, poi si richiudono. È una delle prime navi che è stata modificata. Poi esce sempre nel 22 a luglio Endurance, che è un'espansione, che poi coincidono più o meno anche con le spedizioni, dove puoi costruire le basi, cioè, che già potevi costruire sul mercantile, ma le sono state migliorate, hanno aggiunto nuovi moduli, hanno un po' rivisto tutte quante le categorie, hanno messo le passerelle esterne, eccetera, hanno messo le fregate organiche come le navi viventi, più o meno. Poi è uscito Waypoint nell'ottobre del 22, che è la 21ª, ed l'hanno distribuito su Switch, su Nintendo Switch. Quindi ma qui sono tutti quanti in questa espansione, tutti quanti personalizzazioni, semplificazioni, migliorie del LUD, della gestione delle tecnologie, eccetera, eccetera. È più una cosa user friendly. Poi arriviamo nel 2023 con Fractal, anche qui supporto maggiore al VR, allo Steam Deck e alle versioni del Nintendo, e hanno semplicemente messo un registro delle meraviglie, che praticamente tu puoi in automatico ti mette il pianeta più rigoglioso che hai trovato, l'animale più feroce, eccetera eccetera, e poi memorizzarti le cose che ti sono sembrate più belle. L'ultima è stata Interceptor, aprile, fra poco ne uscirà un'altra probabilmente. Interceptor è praticamente la 23ª espansione, è centrata molto sulla lore del gioco e viene introdotto il materiale che praticamente corrompe i pianeti, quindi questi pianeti a un certo punto escono fuori, anche i pianeti vecchi che già conoscevano, escono fuori sti cristalli, a volte ci trovi incastrati delle sentinelle corrotte in mezzo a queste cristallizzate, e è un materiale che puoi usare per caricare le navi sentinelle, perché di tanto in tanto trovi sfasciate per terra una nave sentinella, che sono altre navi che cambiano configurazione tra il volo e l'atterraggio e si ricaricano con questi materiali, e sono leggermente più potenti. Tra l'altro, in tutto questo marasma di espansioni, che sono 23 espansioni in 7 anni, hanno anche diviso le navi in classi, hanno aumentato gli slot di riorganizzati 2-3 volte, tra l'altro gli slot di carico, hanno fatto un macello in senso positivo, quindi hanno diviso le navi in navi esploratrici, navi da combattimento, navi da carico, navi da un cazzo che non servono a niente, ci sono anche quelle, hanno fatto un grosso lavoro, e tutto sto bordello ha portato a creare comunque una community che effettivamente il gioco lo segue, e hanno cominciato a giocarsi, e se andate a vedere sulle recensioni di Steam, giocarci ma forte forte. E praticamente, se andate a vedere le recensioni che stanno su Steam, sono passate dal mortacci vostri, penso che ci sia arrivato, a molto buono positivo. Forse qualche mortacci vostri l'avremmo detto anche noi, quindi... ma ce l'abbiamo messi pure noi tanti mortacci ci abbiamo messo. Noi il nostro c'ha, noi non ce l'abbiamo messo, insomma. Ti ripeto, ci hanno fatto un lavorone di ottimizzazione, un lavorone ma proprio di riempimento. Che poi in generale, che vedete, è una nave intercepto, è una nave sentinella questa che poi in generale, no, diciamo così, anche se non era strettamente un gioco massivo multiplayer, comunque è quello che uno ci si aspetta da un tipo di gioco così, cioè nel senso, perché comunque anche se aveva una logica diversa dal scusa se ti interrompo, ma una comunicazione di servizio, si può spostare con i tuoi superpoteri il QR dall'altra parte, perché c'è scritto live sopra, qualche poveraccio, povero disgraziato magari live lo vedi tu, loro non lo vedono. Ah vabbè, ok, perfetto. No, l'importante è che non lo veda nessuno. No, non lo vedo. Vai sereno su questa cosa. L'importante è che non si vede dove non si deve vedere. Ti ho interrotto inutilmente. Sì, esatto. E adesso non ricordo neanche quello che stavo dicendo, poi fondamentalmente. Pazienza. No, invece era importante, perché stavo dicendo qualche cosa su... ecco, sul fatto che comunque, pur non essendo un tipico gioco multiplayer massivo, comunque alla fine è, cioè, la logica era quella di creare un universo condiviso all'interno del quale, indipendentemente dal fatto che c'è o non c'è il giocatore contro il giocatore, ci fossero ovviamente espansioni ed eventi che comunque tenessero viva ovviamente l'interesse del gioco. Quindi è normale quello che è successo dopo, il fatto è che non era normale quello che era successo prima, chiaramente. E questo alla fine comunque mi ha fatto riflettere anche sul fatto che io ho smesso di giocarci e non ho più aperto, proprio mai aperto, neanche dopo, quando Marco comunque mi diceva negli anni: guarda che hanno fatto questo, hanno messo quest'altro, adesso è un gioco, ti piacerebbe. Comunque, anche interessato a quello che diceva Marco, comunque io non l'ho più aperto, perché per me è stato proprio una cosa psicologica, è stata una questione proprio personale quasi. Però invece Marco, e qui mi servirebbe sapere ovviamente quello che dici tu, cioè tu non hai mai veramente smesso di giocarci, cioè tu al gioco hai smesso di giocarci, però a un certo punto ogni tanto una botta gli arrivavi. Allora, in realtà sono stati quei maledetti col gildane, come si dice, chi stanno nella tua stessa gilda. Vabbè, gli stessi maledetti che giocano Elite, che ogni tanto, di tanto in tanto... C'è Francesco che te vuole... Vabbè, Francesco che dice cose in chat che non c'entrano niente, però se gli vuoi rispondere magari... L'asta non lo so, questa me l'ha data Pizzi, quindi... Ah, sono io che te l'ho data, non l'hai comprata te? Credo di sì, io ho comprato solo questa cosa qui intorno, questa me l'ha data Pizzi. Vabbè, poi troveremo, dai, poi te lo dico io. Praticamente da quando mi ruppi il cazzo per... Come tutti, insomma. Per quella storia delle navi, io sono stato fino a... penso al 2020... 2019, 2020... No, secondo me è un po' prima, perché tu poi hai cominciato, ogni tanto mi dicevi che ci rigiunavi. Sicuramente di Elite, che ogni tanto facevano delle sortite da qualche altra parte. Dicevo, ma stasera io c'ho... Ah, perché ricordiamo, l'antefatto è che Marco, giocando ad Elite, si è costruito tramite Discord, cioè un gruppo di amici che... No, non è che sto costruito. Mi sono costruito, cioè c'era, insomma, l'ho ereditato, perché... l'hai ereditato, insomma, questa gilda con la quale loro si sono incontrati, ovviamente hanno comunque fatto cooperativismo all'interno dei Elite, e poi questi evidentemente ogni tanto dicevano: no, raga, andiamo a fare una botta di No Man's Sky. Esatto, quindi abbiamo provato anche il gioco, e poi comunque tutto, guardando il video che hai fatto tu, è tutto un altro gioco comunque, cioè rispetto a quello che ho giocato io, perché c'era roba da fare. Basta metterci roba da fare. Esatto. Praticamente, allora, che succede? Che qui abbiamo provato a costruire delle basi insieme, poi capisci anche i limiti, cerchi di capire quali sono i limiti, cioè andiamo sulla nave ammiraglia, sul mercantile, proviamo a fare un salto sul mercantile e vediamo che succede. Succede che il proprietario salta, gli altri rimangono tipo così, cosa del genere. Perché ovviamente ci sono ancora delle puttanate che non hanno mai risolto. Perché qui il lato positivo è questo, che comunque continuano a sfornare roba come se non ci fosse un domani. Però c'è ancora un lato negativo, e che secondo me è lo stesso lato negativo dei Sims. Non so se qualcuno di voi ha mai giocato ai Sims. Guarda, tu sicuramente. Io ho giocato, quindi conosco il lato negativo dei Sims. Fino al 3 ci hai giocato, poi al 4 non lo so se l'hai giocato, però. Allora, sì, no, l'ho giocato un po' tutti. Allora, qual è il difetto grosso, e mai il vantaggio, perché dipende come lo usi. Certo. Il difetto grosso dei Sims è che te lo fanno uscire, ti ci diverti, dopo un po' devi fare sempre, fai le stesse cose e ti rompi il cazzo. Lo prendi e lo metti da parte e passa ad altro. Dopo 6 mesi, 8 mesi, beh, le fanno uscire. Ti interrompo per dirti che c'è sta gente, onestamente, su YouTube che ci ha fatto ai dinastie. Cioè, no, ci ha fatto le telenovele con. Aspetta. Cioè, tipo andarci aspetta. Avanti per anni, insomma. Sì, aspetta. Aspetta, che lo metti da una parte. Dopo 8 mesi ti fanno uscire, oh, The Sims, cuccioli che belli, no espansioni. E tu te prendi cuccioli che belli, perché oltre agli animaletti ti aggiungono nuove funzionalità, nuovi pezzi, nuove cose. E ci giochi per altro tempo, poi ti rompi il cazzo, lo prendi e lo metti via. Dopo 8-9 mesi ti esce Sims bacchette magiche nel sedere. Ah, che bello, voglio Sims bacchette magiche nel sedere. Ti prendi Big Sims bacchette magiche nel sedere e ti insegnano alla Sims a fare le magie, a adottare il drago, a cagare le uova, eccetera eccetera. E così via. Cioè, ogni tot mesi fanno uscire un'espansione che amplifica le possibilità di gioco, da nuove cose da fare a quelli che si rompono il cazzo, perché dopo un po' ti rompi il cazzo, cioè non puoi, non esci fuori dalla vabbè storia, ma è oggettivo che è così su. Cioè, nel alla senso cose, è pure nella natura di questi giochi, cioè, nel esatto senso, ho fatto stanza. Apposta il nome Sky c'ha lo stesso difetto, solo che mentre la EA so dei corrotti non nel senso che prendono le bustarelle, quello non lo so, ma proprio che c'hanno il cuore corrotto, c'hanno la corruzione dentro, hanno il famoso cassonetto al posto del cuore, loro pensano ai soldi, quindi te vendono la versione base, poi te vendono il DLC, poi te vendono l'altro DLC, poi te vendono il pass del cazzo imperio, il pack, eccetera eccetera, tutto a pagamento, e ti fanno pagare un gioco anche dubbiotte, una cosa del genere, ma te costa una follia. No Man's Sky ha fatto una figura talmente de merda che tutte le espansioni le hanno fatte uscire gratis. Ma vabbè, non è l'unico gioco. Pure Fallout 76 cioè, ha avuto le espansioni sono uscite gratis. Cosa? Pure Fallout 76 le espansioni sono uscite. Fallout 76, ma io sto a parlare di The Sims. Ah, ok. Fallout 76 non te stufa come te posso fare The Sims o come te posso fare No Man's Sky, perché dopo un po' te rompi, ma alla fine sono sempre. Cioè, non c'è un endgame vero e proprio. Però dai, su giochi con ambizioni totalmente diverse. Su, nel senso, esatto, però per quello che ti sto dicendo, cioè, sto dicendo proprio questa cosa. Mentre EA capitalizza, perché poi alla fine il gioco base comunque te ci diverti, e quindi per provare qualche cosa di più, vedere qualche cosa di più, ti fa comprare il DLC, No Man's Sky no, perché ha talmente fatto una figura di merda che se li metteva a pagamenti chiudevano, quindi ha cominciato a far uscire a manetta roba gratis, 23 espansioni gratis dove hanno messo un mondo, e continuano ad essere gratis, perché alla fine io riprendo il gioco quando esce l'espansione per vedere che succede, che cosa posso fare in più, la nave nuova, gli slot nuovi, le cazzate nuove, poi dopo un po' ok, ho riprovato tutto, sono andato dentro al centro dell'universo, sì, che bello, ho capito come funziona, ho finito tutte quante le trame, dopo un po' ti rompi le palle, perché purtroppo è questa la cosa. Giocando da soli poi è molto più facile che te stufi, perché in due magari il cazzeggio ci può stare, ma il problema è che giocare insieme poi non c'ha tantissime cose da fare, perché i combattimenti spaziali non so il massimo, le missioni sì, però alla fine sono ripetitive. Quindi c'è sempre questo problema, che dopo un po' lo fa. E questo ogni tanto lo metti in pausa. Diciamo. Ogni tanto lo metto in pausa, aspetto che esce un'espansione nuova e mi ci rimetto. Magari mi ci chiudo anche per 2-3 settimane, poi piano piano. Però comunque l'intenzione di No Man's Sky non era quello di fare il gioco iper skillato con i combattimenti, era comunque. No, era una cosa di. Però il problema è che quando fai un gioco che deve essere tutta quanta mirata su comunque sullo scopo, sulla scoperta, sull'espansione, ma dopo sulla fascinazione, secondo me era più dopo quello. Un po' vedi sempre le stesse cose, certo, comunque certo, con variabili veramente minime, ti rompi il cazzo. Ma guarda, anche le variabili, pure se fossero state minime, comunque è proprio il concept generale che non era, che era sempre lo stesso, perché anche se tu vai su un pianeta e trovi le rocce diverse o un animale diverso, e comunque alla fine tutta questa diversità non c'era, ma anche ci fosse stata diversità, il problema è proprio il concetto generale, che era quello, cioè basta, c'era solo quello, e quindi ovviamente te lo mettevano a manetta in un pattern ripetitivo. Invece ovviamente poi dopo, espandendo il gioco, le cose poi possono cambiare, anche se poi ovviamente se un gioco c'ha dei limiti oggettivi all'inizio, per quanto tu la possa migliorare, è normale che non sarà mai il gioco della vita, no? Quindi tu dici, io intanto ci gioco, poi dopo due o tre settimane non po' il cazzo e passo ad altro, poi magari fra un po' ci ritorno, insomma. Eh sì, anche perché poi, ecco, adesso sta andando sul monitor una delle basi che ho costruito, qua mi ci sono messo un pochino, ho creato delle serrature con le combinazioni, ho fatto dei giochini così, tanto per divertirmi. Sì, però posso dire che sto mantello fa venire l'ictus al cervello? Possiamo dire che sto mantello fa venire l'ictus al cervello. È uno dei suoi scopi, è proprio quello. Niente fastidioso, cioè. Esatto. E praticamente mi sono divertito a fare sta base sfruttando una grotta che ho casualmente trovato vicino. Ho fatto sta piramidone da cui si accede, ecco, da sto passaggio sott'acqua, che poi ha una combinazione di una serratura a combinazione che deve essere messa in un determinato punto per aprire la porta. Tipo Minecraft, insomma, è diventato. Una cosa del genere. Ma guarda, cioè, è vero, è Minecraft su certe cose. Ma se tu vedi, c'è gente che sfruttando alcuni glitch del gioco fa delle cose assurde con questo gioco, cioè diciamo sta, no, hanno migliorato tantissimo, e costruire basi ti ci diverti tanto, solo che dopo un po' pure quello. Vabbè, ma è normale, Marco, cioè io penso che pure a Star Citizen dopo un po'. No, Star Citizen non puoi annoiarti perché tanto te crasha sempre il gioco, quindi stai sempre a rifare le stesse cose, ti annoi per quello, perché stai cercando di rifare sempre le stesse cose, ma perché sennò il gioco teoricamente c'ha tante cose, se fosse un gioco, ma sappiamo che non lo è. No, tra l'altro poi mi ricordo che noi c'era un periodo in cui avevamo sperimentato e provato, te lo ricordi, Space Engineer? Ah, Space Engineer, sì. Sì, da qualche parte, a meno che non l'hanno cassato, c'ho ancora. E alla fine facevamo delle cose mostruose. Ricordo la runtime, sì, la sì, nave runtime, sì, che era bruttissima, però sì, era bellissima. Cioè, facevamo delle cose mostruose. Ma collo, i cannoni. Cioè, però era figo, perché comunque lì veramente potevi fare cose. Ecco, cioè, lì era un gioco potenzialmente, no? Nel senso che te potevi sbizzarrire con tutta la fantasia, solo che poi dopo era un po' macchinoso, oppure era un po' difficile, quindi dopo un po' ne cagavi il cazzo. No, diciamo, non è facile. Però anche lì c'è una comunità dove si fanno le guerre, si caricano le navi e si fanno le guerre, si divertono a spaccarsi le navi a vicenda. Beh, ti ricordi, noi avevamo, i danni sono abbastanza realistici, capito? Avevamo caricato dal coso, dal workshop di Steam, l'Enterprise, no? Cioè, comunque era figo. Era per saltare le navi al computer, ma tutto a posto. Sì, sì, esatto. Vabbè, insomma, tu comunque, diciamo, alla fine, 7 anni dopo, insomma, questo gioco, che comunque, diciamo che pur mantenendo il core abbastanza originale, poi alla fine comunque si è espanso tantissimo. A 7 anni di distanza, come lo consideri? Cioè, il fatto che tu ogni tanto poi ci vai a fare una capatina, insomma. Ma io ogni tanto ci diverto, cioè è un gioco che comunque è divertente. Cioè, se riesci a trovare anche un minimo di gruppetto per fare 2 o 3 stronzate insieme, è divertente. Poi ti ripeto che se ti piace comunque seguirlo un pochino il gioco, quindi aspettare che escono le espansioni, provare qualche cosa nuova, può essere divertente. L'unica cosa che è molto cazzo lunghista, cioè in questo gioco tu alla fine sei portato a sfruttare molti glitch. Sto gioco è pieno di exploit, o exploit come volete voi, è pieno, è veramente pieno, e alcuni l'hanno eliminati, ma la stragrande maggioranza c'è ancora, e cioè ti permette di sbloccare cose che dovresti sbloccare con monete particolari, sempre acquistabili, ottenibili in gioco, non si acquista niente, però praticamente devi mettere di usarle e recuperarle senza, come se non avessi mai speso. Ci sono degli exploit. Vabbè, tu consideri che queste cose ci stanno anche su Minecraft, che sono 15 anni che sì, ma non li puoi risolvere. Poi bisogna vedere se non li puoi, o perché veramente è tecnicamente complicato, o perché magari tu risolvendo quel problema a cascata magari se ne creano altri 20, esatto. No, però come dicevo, sto gioco è cazzo lunghista, perché poi alla fine tu sei portato a cercare la nave che salta di più, trovare gli upgrade. Vabbè, dai, però questa è nella natura di queste cose, su. Esatto, che degli upgrade, quelli perché sono tipo a lotteria, capito? Ti viene l'upgrade de merda oppure quello figo, quindi devi trovare quello più figo. Poi lì ci sono gli exploit che puoi permetterti di sapere prima che cosa ci sarà. È un mondo. Allora, se tu ti immergi nella profondità di No Man's Sky, trovi i mostri, ok? Che ci stanno pure quelli, perché fanno parte comunque di sto tipo di gioco. Però è lì, cioè. E poi ti chiedi, no? Ok, sto multi tool che fa 36.000 punti danno a colpo, cioè una cosa devastante. Non so se hai visto sul video, a un certo punto mi arrivano le sentinelle, hai visto quei bipedi, quelli giganti, ti ricordi quanti erano rotti in culo? quelli grossi su due zampe. Sì. Quelli lì, praticamente, c'ho sto multitool che l'ho potenziato talmente tanto che 10 secondi li mazzi, quelli grossi. Cioè, quindi immaginate un po'. E sta lì, magari stai lì a spulciare, questo però sta upgrade è più forte. E poi dice, ma perché cazzo però faccio? Perché mi serve? Cioè, ci sono quando ti chiedi a che mi serve arrivare a quel punto, ti rendi conto che non ti serve. Vabbè. Cioè, per goderti il gioco non te serve. Ok, però ci sta, comunque nel senso. No, ma ci sta. Allora io mi ricordo che i primi tempi quando ci giocavo e tu c'avevi la nave che comunque c'aveva pochi slot, ogni volta dovevi scaricare roba, cosa, fino a che non trovi la nave che c'aveva più slot. Cioè, comunque gli slot te li poi o paghi, cioè quei soldoni, paghi e quindi ti aumenta le slot proprio esponenzialmente. I soldoni in che senso, scusa? Che senso quei soldoni? I soldoni veri, i soldoni di gioco. Ah, ok. Ma tanti soldoni, arrivano anche a 250 milioni a slot al massimo. Oppure quando mandi le tue navi del tuo, come si chiama, le fregate, ecco, che fanno praticamente da flotta, le mandi a fare le missioni, cioè 5 missioni al giorno da fare. Quando riportano le cose, magari ci sono anche gli slot di ingrandimento del cargo delle navi, c'è un po' di tutto tra le ricompense che trovano, quindi puoi aumentare anche gli slot delle navi in questo modo o pagando. Puoi fare la stessa cosa anche per i multitool, per dire, i multitool ti ricordi che c'erano un tot numero di slot e basta, adesso puoi aumentarne di classe pagando in naniti, che era una moneta leggermente più preziosa dei soldi normali, oppure poi aumentarne gli slot pagando anche lì in crediti di gioco, quindi puoi veramente potenziare tutto. Poi collezionare navi, poi arriva, mi sembra adesso non so se 12 o 15 navi poi arriva al massimo. Se ti piace fare queste cose, fare il completista, che vuoi le super navi, la super nave esploratrice, la super nave da guerra, la super nave da trasporto, te ci metti e te ci chiudi su sto gioco, ma te ci chiudi facilmente. Solo che non te devi chiedere a che mi serve, perché poi effettivamente cioè nel gioco. In che senso? Non mi devi chiedere a che mi serve. Nel senso che tu, vabbè, ma io mi sono fatto sta nave da guerra che fa 40 milioni di età, e quindi esatto, vabbè. Vabbè, quindi insomma, tu a 7 anni di distanza cosa diresti oggi? Cioè, nel senso, uno, perché tu, per se esempio, volete, con me ci hai provato, come ci hai provato a dirmi dai rigioca, cioè, però, magari, tanto se famo, tanto se famo una cooperativa, abbonamento Xbox, magari ci puoi dare un'occhiata, ma anche perché poi fate se due risate. Ma chi volesse provare può provare, che comunque adesso è un gioco giocabile, divertente, c'è una community, ci sono anche un sacco di italiani, è facile andare dentro l'hub e trovare gente nella chat che parla, oh, mi serve il fregno, per dire, cioè, gente italiana, il fregno, esatto, mi serve la ferrite, mi serve quest'altro, e quindi è facile insomma trovare anche italiani. Dategli un'occhiata, insomma, se avete qualche abbonamento Ultimate Warrior su Xbox, per dire, che magari non vi costa niente, dategli un'occhiata, oppure guardatevi qualche video, perché se vi piace costruire, se vi piace un po' esplorare, andare un po' a cazzarella, è comunque un gioco divertente. Sì, poi diciamo che il video che ha postato Marco può essere che lo carichiamo comunque su Dietrologia Videoludica, tanto così, insomma, fa un content, buttarlo lì, insomma, giusto? Per farci content. Esatto, pure voi siete più content e Coyonaut, che insomma sono due elementi che non mescano. Che vanno a braccetto, insomma. Esatto. Va bene, dai, io direi che insomma, tutto sommato, se la siamo fatta una bella chiacchierata, direi anche di salutare Vincent e Francesco. The Sims 4 base è ignobile, non c'è niente dentro, quindi devi prendere tutte quante le espansioni. No, in realtà c'è comunque più roba di quella che c'era su No Man's Sky. Esatto. Pur essendo esatto, ma questo se non l'hanno vissuto, se non l'hanno vissuto non lo possono capire. No Man's Sky è un gioco galattico, quindi cioè, io ti do una galassia, io ti do un lotto su cui costruire. Questa è la differenza tra No Man's Sky e The Sims. Galassia, lotto, ok? Lì su quel lotto comunque ti diverti di più che andare per giro per questa galassia, perché poi non succede niente. Allora, adesso invece vale la pena, insomma. Benissimo, benissimo, carissimi amici, io vi ricordo sempre che Dietrologia Videoludica è un canale YouTube che abbiamo ripreso in mano e sul quale ovviamente ogni tanto facciamo delle live. Vi ricordo che domani sera saremo sempre su questo canale, sempre live, ma con Leo Vargion, e parleremo di tutta la saga di Rusty Lake, che è comunque, insomma, ha la sua buona dose di fan. Mentre Marco Che succede venerdì? Venerdì c'è l'ultima grandiosa puntata di questa stagione di Ho visto cose. Ho visto cose è la mia trasmissione che faccio insieme a Olivia, che è qui, in realtà è lei. Anzi, qua. questa è Olivia. No, dove sta? Mi sto diventando scemo, è lei. Si è messa il casco per non farsi riconoscere. Carino. E dove trattiamo di cose che vediamo, quindi film, telefilm, eventi, qualsiasi cosa di cui vogliamo escape parlare. Room il nostro, escape room anche, insomma, cose che succedono, cioè, gli lasciamo la nostra impressione. Questa venerdì, se tutto va bene, se siamo fortunati, forse addirittura potremmo fare un Ho visto cose dedicato al mitico Indiana Jones. Eh già, l'ultimo Indiana Jones, che penso sarà veramente l'ultimo. È veramente l'ultimo, perché da come è andata agli incassi, insomma, ci hanno rimesso qualche tipo l'osso del collo. Però, secondo me, è vero che ci hanno rimesso l'osso del collo, però valeva la pena. Secondo me quel film valeva la pena, ma hanno sbagliato a farlo uscire troppo in ritardo. Ma ne parleremo venerdì. Va bene. Allora, ragazzi, intanto vi ricordo sempre che, se vi capita, dato che Dietrologia Videoludica è il nostro canale YouTube dedicato ai videogiochi, e quello che viene fatto qui su Dietrologia Videoludica poi va il giorno dopo o dopo qualche tempo, insomma, sul feed RSS del podcast Ludico Forum. Però tutto questo fa parte ovviamente del grande progetto di Runtime Radio. Se avete la possibilità e se avete la voglia, ovviamente sostenete il progetto, che potete farlo tramite questo QR code che vedete, oppure per chi sta ascoltando il podcast andando su runtimeradio.it e cliccando sullo spazio, sulla pulsante anche io, dove insomma ovviamente troverete tutte quante le informazioni per poter dare il vostro supporto a Runtime Radio. Vi ricordo ancora una volta che domani sera saremo live con Leo Varghion, sempre su questo canale, parleremo di Rusty Lake. Venerdì sera sul canale invece di Runtime Radio saremo con Olivia e Marco e parleranno di Indiana Jones, e lunedì prossimo c'è la puntata dedicata a Zelda, mi pare, insomma, quindi poi vediamo, insomma, poi dopo ci organizziamo. E detto questo, volevo dire anche un'altra cosa. Ah sì, ovviamente iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like a questo video, condividetelo, insomma, cercate di far diffondere anche questi nostri lavori che cerchiamo di mettere a disposizione di tutti quanti. Detto questo, caro Marco, io direi che ci possiamo salutare. Ci vediamo venerdì, perché saremo vivi. Ah sì, perché sarà live sul canale YouTube di Runtime Radio. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. E mi raccomando, state per buoni. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.